grazie per questa stupenda vacanza. Grazie, grazie per questo giocoso ritiro balneare. Grazie, grazie per questa magnifica permanenza. Grazie, grazie, me ne ricorderò. Oh, oh, oh. Grazie, grazie per questa fantastica occasione. Grazie, grazie per questi eccellenti momenti di svago. Grazie, grazie per queste scherzose giornate. Me ne ricorderò per tutta la vita, lunga o corta che sia. Lava, lava, lava, lava, lava.